24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Uno che viene colto con le mani nel sacco e che subisce una condanna definitiva in cui si dimostra che lui è stato evasore del fisco, io credo che abbia il buon gusto di mettersi da parte. Silvio Berlusconi era il 1995, di fronte a lui chi c'era? Michele Santoro. Ma proprio nulla è cambiato, nulla, nulla in Italia, non cambia mai nulla. Sono le 6:32 minuti e siamo qui ed è già venerdì, la prima settimana di 24 mattino già sta terminando. E prima settimana nel senso dopo le vacanze, quella roba lì. Voglio salutare oggi Elisabetta Fusconi in redazione, incredibile, alle 6 del mattino, sbrandata clamorosamente. Il nostro alpino Peter Bescapè è sempre qua in regia e si sa. E che dire, siamo tutti pronti? Sì, sì, non ce la contraffina il 3. Milan, sei proprio un coglione. Io speravo. Come cazzo fai a lavorare lì? Ma è possibile che sei un pievo così lavori in radio? E il mondo va così. Ho detto oggi. Vabbè. Ho detto oggi Peter si è dimenticato di farlo entrare, il nostro simpaticone. E invece, addirittura d'arrivo, stavo già aprendo il Parlamento e qua uno neanche apre la saracinesca e ci sono i rompiballe che stanno sulla porta, vabbè, che dobbiamo fare? Caffè a tutti quanti? Caffè a tutti quanti? Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Rossere col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Va bene, stavo pensando, chissà che fine ha fatto Nicole Minetti, non è neanche più avvistata sui siti gossip a Miami, questi posti qua. Va bene, ci mandate un messaggio 349-238-6666 se volete, il clima è questo. Voglio salutare, è venerdì, intanto ritroviamo lo splendido Vincino, che saluto, buongiorno Vincino, come va? Buongiorno. Ti presento Vincino, ti presento la direttora. La direttrice, il direttore, non lo so, adesso dobbiamo chiedere un po', del giornale che diventerà il tuo mantra, anche altro che il Corriere della Sera, finisci a leggere l'editoriale di Ainis, Vincino. Questo è il direttore della Padania, Aurora Lussana, che diventerà il tuo giornale di riferimento tra poco. Giornale verde. Com'è direttore, direttora? Come ti dobbiamo chiamare, Aurora? Io non faccio mai battaglie lessicali come quelle che si indignano di professione. Tu lo sai che io sono per il libero arbitrio, noi siamo per l'autodeterminazione dei popoli, figurarsi se non ti permettiamo di esprimerti come meglio credi. Chiamami un po' come vuoi. Adoro le donne, quindi va bene direttora. Adoro ancora di più gli uomini, chiamami direttore. Io lo sai che non è che mi indigno per... No, ma infatti. Allora, va benissimo direttore. Vincino, possiamo chiamarla come... Aurora, com'è che è Vincino? La capa. Ecco, la capa sarà... Non sbagliare, chiamiamo tutti capo. Capo. Esatto, come il posteggiatore. Capo. Capo. Metto qui. Vabbè, allora, tra l'altro, no, questa me la voglio togliere subito. Cos'è che mi hanno detto che la Padania ha lanciato un concorso? Ma cos'è sta cosa? Direttore, campionato di mitologia leghista. Sì, cos'è? Sì, no, aspetta, il campionato di mitologia leghista, Vincino. E che è? Guarda, una sorta di, come si può definire? Sì, Odino, un pantheon, una cosmogonia fatta un po' così di citazioni, contaminazioni contemporanee, c'è dentro un po' di tutto. Hanno accusato anche la Padania di fare un'operazione un po' sincretista, no? Il Weltanschauung della Lega, questo qua. Ci arrivano i tagliandi dai lettori e ci segnalano quelle che secondo loro nella storia, nella letteratura, nel cinema, ma anche nel mondo del fantasy, dei fumetti, rappresentano il prototipo di leghista. Quindi, allora, Odino ha suggerito. Odino ha suggerito. No, non ha preso voti, Odino. No, anche se c'è una deriva pagana, non è arrivata neanche una scheda, un tagliando per lui. Però, e chi è in testa? Vabbè, è in testa Loriana Fallaci, ovviamente, per le sue invettive anti-Islam, per che era una donna libera, pugnace, una che insomma non c'aveva paura di nessuno, un po' il mito dei leghisti. In testa, Oriana Fallaci. La Oriana Fallaci, sì, la libertà è un diritto, non un dovere, è una roba che esalta un po' i leghisti. E poi chi è che la tallona, la Fallaci? No, guarda, è messo bene, Leonida dei 300. Leonida dei 300? Sì, lì insomma, la terra, difende Sparta contro l'invasore. E quello Mel Gibson, dai, Braveheart, non era il film dei leghisti? Ma sì, è messo bene ovviamente anche Braveheart. Però Oriana Fallaci. Sì, poi vabbè, tallonata anche da Giovanna d'Arco. Messo bene anche il ragazzo di campagna Pozzetto. Ma no, io voglio sapere tutto di questa. Il ragazzo di campagna Pozzetto. Seguiremo questa. No, Celentano sarà odiato adesso, zero. Ma figurati. Ma no, ma quelli del passato. Poi c'è Vercingetorice, perché ovviamente è opposto all'impero romano. Sì. E poi messo bene Eric Cartman di South Park. Fumetti. Ah, vabbè. Vincino, io stavo prendendo appunti. È cosmogonia sincretista. Per studiare un po'. Un attimo. Brava, è un linguaggio. No, bravissimo. E invece alto, un'altra, diciamo, un'altra cosa invece devo chiedere a Vincino, che è questa. L'altra volta mi sono dimenticato, ho fatto un errore clamoroso. Non ti ho chiesto come ha passato l'estate il busto di marmo di Andreotti. Come gli altri efori imperiali praticamente, no? Come tutti gli altri marmi, messo là tranquillo sotto il sole e via. Non... Sotto il sole, cioè lo abbandoni sotto il sole. Sì, no, come, quando c'è il sole, no, perché poi la loro fortuna di questi marmorizzati è che, per dire, a loro le zanzare non gli fanno niente. Io per esempio in questo momento sono sotto attacco, attacco, cerco di rispondere chimicamente con zampironi, cose, proprio, infatti sto intossicato pure io. No, perché dobbiamo spiegare al direttore della Padania, la capa, che Vincino ha in casa, ma da anni, è un busto di marmo fatto dai marmi di Carrara, dai marmisti di Carrara, quello, di Giulio Andreotti. E così se lo tiene lì, lo guarda. Ognuno ha i suoi totem. No, ma lei, noi una volta, quando facevamo il giornale Il Male, avevamo fatto un premio di satira nera mondiale, no? E Andreotti era là, era Ce l'hai raccontata, l'avete fatto fare. Al Pincio. Dopo, dal Pincio, quando è ritornato, poi dopo, quando Il Male è finito, è rimasto a casa mia. È rimasto a te. No, ma Il Male c'è ancora. Dove andare per la strada, mica potevamo metterlo per la strada, no? E poi si creava un posto di culto così, fuori dal comune, insomma. Certo. Vabbè, se tu metti in una strada un busto di Andreotti, la gente ci va. Poi parliamo di cose che non contano, ma l'ultima cosa è questa. Aurora, ci chiedono via SMS Attila come è messo nella classifica. Attila. Aspetta che ce l'ho qua, c'ho Gianni Brera, Bobby Sentex, Diller, aspetta, è messo bene anche Attila, fratello di Dio, grido di battaglia, fratello di città, doppia T di terremoto, perché è il personaggio interpretato da Batantuono, ma certo, vabbè, ma insomma, avete capito. Ora parliamo di cosucce invece. Allora, Silvio Berlusconi, siamo alla puntata telenovela numero 5732. Allora, oggi lo dipingono come falco tendente alla colomba, ecco i giornali. La notizia è questa: Vincino, ieri Confalonieri, la dal Corriere della Sera, è stato ricevuto privatamente da Giorgio Napolitano, su mandato di Berlusconi, che si saranno detti con Falonieri? Ha parlato di Canale 5, dell'ultima starlette, le veline, le cose. Credo di no. Napolitano piacciono moltissimo. No, una grande cultura musicale con Falonieri. Lo so, avranno parlato di musica a Canale 5, è così. No, perché con Falonieri viene dato in questi giorni come l'uomo che più sta consigliando, l'amico Silvio Berlusconi, a dire attenzione alle aziende. Per esempio, voi ci credete a questa storia del video messaggio già pronto, Vincino, tu ci credi? No. Assolutamente no, secondo me assolutamente no, e secondo me lui non fa cadere nessun governo di niente, ma come dire, questo è anche credo quello che gli consiglia il Foglio, no? Che è troppo divertente. Devono fare un vertice, devono andare a San Vittore e chiedere permesso al magistrato di sorveglianza per fare un vertice di governo. Ah, è una scena questa meravigliosa, come si aprono per la satira italiana. Infatti oggi Vincino sul Foglio disegna Giorgio Napolitano che fa: come non ti dimetti dal governo a Berlusconi? Mi hai fatto accattare quattro senatori a vita inutilmente. Quindi hanno già la maggioranza pronta da un mese e mezzo. da un mese, da quando c'è stata la sentenza, c'hanno già la maggioranza pronta. Hanno 25 senatori del PDL, tutti in silenzio, come i massoni in sonno, no, praticamente. Più 10 che qui Grillo gliene fa 2 al giorno, no? Sì, perché quando insulta dice tu sei il nuovo Scilipoti e via, questo è tu sei e via. No, infatti i Scilipoti sono tanti, l'hai visto? Sì. Scilipoti, Scilipotino, Scilipotella, ormai è una quindicina, è diventato un gruppo. Sì, il gruppo Scilipoti c'è al Senato. Bersani tenta disperatamente di fare cadere il governo, di rimandare tutto. Se lui riesce a rimandare il congresso al 2016, può essere che Renzi non ce la fa. Bersani, lo scopo della vita di Bersani, forse anche ammazzare Renzi. Il 2026, forse. Bersani, che è un mito dei leghisti, vuole ammazzare Renzi. Bersani no. Bersani credo che nella classifica dei leghisti non c'è. No, leghisti che tra l'altro... ieri la Lega ha vissuto il momento di gloria, diciamolo, Aurora Lussana, in Parlamento. Però avete fatto votare questa mozione leghista contro le slot, l'apertura delle nuove slot machine. Sì, però diciamolo chiaramente, è una mozione, cioè non conta nulla, non è una legge, non impegna il governo, ma chi se ne frega, cioè si sa che queste cose poi non vengono... Però è scattato lo psicodramma, perché hanno tirato il golf. Alla fine loro sanno che conti si reggono sulle slot, sul gioco d'azzardo, sui video poker, sulle scommesse online. E infatti adesso non sanno come trovare i soldi per l'IMU, per esempio. Sì, abbiamo capito come si regge il nostro sistema fiscale sul gioco d'azzardo. Sul gioco d'azzardo. Abbiamo svelato il blef. 5 miliardi. Poi chi ha sbagliato a votare, hai visto? Chi è che ha sbagliato a votare? Troppo casino in aula, Casson. Casson ha detto è stato un errore, rimedieremo. Casson è uno che ha sbagliato a votare un magari sacco di volte. Sbagliano pure in giunta lunedì, no? Quando c'è da votare. No, ma non voteranno. Come andrà? Allora, la Lega chiaramente l'ha detto anche ieri Maroni, ora basta, stacchiamo. Voi volete andare alle elezioni, questo è abbastanza chiaro, è abbastanza risaputo. E noi siamo contro gli OGM, io tra l'altro sono qui ma perché? In campagna amica per quello, a fare la spesa. Tutti i venerdì faccio la spesa, oggi ho maggior ragione perché domani devo digiunare per la Siria. Aderisce al digiuno. Anche solo per rispetto dei cristiani in Siria perseguitati dai cosiddetti ribelli che rischiano la pellaccia tutti i giorni. Quindi oggi... Ah, ma tu rischi dall'altra parte, praticamente, sì. A favore del governo Assad. Sì, a favore del governo, no, ma no, però... contro i ribelli sei visto, no, ma dico, c'è chi digiuna contro il governo Assad e chi ti digiuna a favore del governo Assad. Ah, addirittura. No. Per il popolo siriano che non deve essere massacrato, bombardato. E questo certamente. No, però tornando in Italia per un attimo, Aurora, perché la questione, cioè non vi rendete conto che far cadere il governo, anche se non è un governo che voi appoggiate, ovviamente siete all'opposizione, però in questo momento, quando Napolitano dice, cioè i mercati ci guardano, è effettivamente una situazione di rischio, di crisi incombente poi senza governo. Ma tanto l'instabilità politica c'è comunque, cioè voglio dire, su quello sputo il governo Letta, il governo che in qualche modo noi definiamo un OGM, un organismo geneticamente modificato con PD, PDL, scelta civica o sciolta civica, che dir si voglia, quindi quanto vale far chiarezza, è come l'IMU, adesso non abbiamo capito cosa paghiamo, quanto a me l'incertezza crea più inquietudine che altro, meglio sapere che devi pagare 1000 euro oggi che non capire cosa devi pagare nel 2014, no? Anche l'economia è in stallo per questa totale... Capito, Vincino? Io preferisco non pagare 1000 euro oggi e sapere domani. E non pagarli mai, né oggi né domani. Il videomessaggio secondo me c'è, spero, con Dudu e la Pascale. Ah, ecco, cioè, il videomessaggio con Dudu e la Pascale. Questo dice. Il videomessaggio con Dudu e la Pascale. Il cagnolino è adorabile. Sarebbe veramente senza prezzo il videomessaggio con Dudu. Sai chi è Dudu, Vincino? Certo, Dudu è l'unico che cerca lui, vedi, ormai non gli si alza più, non gli funziona più niente, no, in questo momento qua. Tutto è l'unico che lo rallegra un poco. Che Massimo Gravellini 2 giorni fa sulla stampa ha detto: faccio un appello, liberiamolo, non può stare in quelle poltrone del 1700, cioè liberiamo Dudu, il cane di Silvio Berlusconi dagli arresti domiciliari. Silvio, certo. Allora, lo sapevamo che saremmo finiti così, ragazzi. Una mia amica ha sposato un ultra che va tutte le domeniche in curva. Ma cosa lamenta. C'entra? Ah, ma qui la stessa cosa, il PD si è messo con Berlusconi. Berlusconi con la roba qui, che cosa si aspettavano? Ma quello che avete appoggiato, vabbè, ma aspetta, per un attimo, devo andare alle informazioni sul traffico, quello che la Lega ha appoggiato per tanti anni, prima di ravvedersi dal punto di vista della Lega. 24 mattino. Oddio, ha ragione, certo che sono arrabbiata, ma stanno facendo di tutto per salvare il culo a Berlusconi, altri tre processi. Con gli altri tre processi cosa facciamo poi? Buttiamo giù un altro governo? Ne ho le palle piene, anche se non ce l'ho, vabbè. Veramente arrabbiata, guardi, arrabbiata. Ha visto l'esperienza di questa legge Severino? Il Presidente della Repubblica nel futuro dovrebbe respingere tutte le leggi che non chiariscono l'applicabilità. 20.000 euro al mese, commissioni, discussioni, crisi di governo, per una riga, bastava aggiungere una riga sull'applicabilità della legge, se era retroattiva o meno, 30.000 al mese per non far nulla. Il PD non è più un partito, è una lotta ai coltelli, è una cozzaglia di arroganza di tipi che si agitano per elemosinare, strappare coi denti potere e poltrone. Povera base che non può più credere in niente. D'Alema, Finocchiaro, Bersani, andatevene via. Dovreste solo vergognarvi e nascondervi. Ma tu hai visto che eleganza quella Bindi in pantaloni? Ma tu hai visto che portanza con quell'anima de panza che gli strippa le garzoni? Con che grazia e che passione ha voi chiesto a Berlusconi di levarsi da quegli uomini? Rosicara, non ti sembra che per te sia giunto il tempo d'andare presto in un convento? Vincino, che dobbiamo aggiungere? Ma lei credo che ci viva già in un convento? No, credo di no. Però oggi fa un'intervista a Repubblica e dice: non metterò in imbarazzo Renzi e dico che non lo appoggerò. E beh, devo dire, almeno lei ci evita il salto sul carro del vincitore, almeno lei. Rosy Bindi. Comunque siamo con Vincino, con Direttore del Male, con Aurora Lussana, capa della Padania. Aurora, guarda che suggeriscono, per esempio, via SMS, ci dicono: se volete inserire un animale tra i prototipi leghista, la trota, suggeriscono, il trota, la trota, non so se questa... Nerone. Nerone, eccolo su, lì. Ragazzi, su. Sai che il trota è sparito, su, dai, basta. Basta. Questa era la trota. Abbiamo destinato tutti i peccati in terra con il trota. Ecco. Ma lo sentite più, lo vedete mai? Circola mai? No, non si sa più niente. Ma come la Minetti? Tu ti chiedevi dove la Minetti? E voi, dov'è il trota? Ecco il trota. Saranno al bar stamattina insieme. Saranno insieme, chi lo sa. Allora, vi voglio far ascoltare questa. Renato Brunetta ha una missione, se l'hai messo in testa, ha detto lancia... Non cos'è? Pagare l'IMU, no. Non pagare l'IMU, no. Per la casa di 230... Vabbè. Che poi si perde, la poverino. No, smettila, finiscila. No, io gli voglio bene, non è che... No, ecco, appunto, finiscila. No, si chiama, credo, Media RaiWatch.it, insomma, ha detto in Rai c'è il comunismo, questo è il concetto base, forse non ha detto queste parole... Per esempio, adesso ha preso di punta la Gabanelli, sentite, vuol sapere tutto della Gabanelli. Quanto guadagna la Gabanelli, che tipo di contratto ha la Gabanelli, visto che la Gabanelli fa egregiamente questo lavoro nei confronti del resto del mondo, sarebbe bene sapere che contratto ha la Gabanelli, che contratto hanno i collaboratori della Gabanelli, se la Gabanelli col suo contratto con la Rai ha anche il contratto di esclusiva oppure no, visto che scrive anche per il Corriere della Sera. Intanto l'ha citata 8 volte in 10 secondi, Vincino, è ossessionato, comunque forse è legittima questa campagna, lui vuol sapere tutto della Rai, cioè fa le comunicati stampa a dire sulla par condicio che non c'è, diciamo, però dice, no? Floris invita 7 del centro-sinistra e 3 del centro-destra, poi e fa tutte sì, le... Però è anche là, pure lui è un poco, dovrebbe dire, che contratto ha il conduttore di Porta a Porta, quanto guadagna il conduttore di Porta a Porta? Vabbè, ma vorrà sapere anche quello. Ma no, e lui fa la parte di quello che è un po' troppo pure lui... come dire, fosse un po' più equilibrato da tutti i lati, andrebbe meglio, no? Sì, ma, sì, certo, poi, certo, non è che dice... Cioè, diciamo pure, la Gabanelli ogni tanto ci sbaglia, ma ogni tanto ci azzecca. No, no, la Gabanelli ci ha liberato da Di Pietro. C'è una cosa che l'Italia intera la ringrazia ancora e la ringa la voterebbe. Però Brunetta l'ha detto che fa molto bene il suo lavoro, voglio sapere quanto guadagna. Per esempio Aurora Lussana, è giusto sapere quanto guadagna. Anche la capa di Telepadania. Certo. Del sito web c'è pure Telepadania. C'è Telepadania, come no? Giusto verde, come? Uno stipendio giusto, abbiamo ridotto i costi. Quindi io so bene gli stipendi di Telepadania, i minimi sindacali, i minimi tabellari. Quei giornalisti che fanno qualunque cosa, dallo speech, responsabili video, audio, una roba però fenomenale. Siete pagati dallo Stato praticamente, dal finanziamento pubblico. No. Come no, noi che utilizzerei dei soldi del partito? No, noi siamo 5 giornalisti che fanno multitasking, che fanno qualunque cosa, e quindi so i conti che riguardano sì, la mia ma i soldi che verità dà? Sarete, sarete dipendenti del partito, sarete dipendenti del partito, no? Ma no, sono dipendenti di una società, perché la TV è una società, e la Celtic è una SRL. Ma, ecco, la legge sulla stampa paga televisioni e giornali. Vabbè. No, ma noi non vogliamo sapere da chi prende i soldi. No, la Lega Nord ha solo un organo ufficiale di stampa che è il quotidiano, la Padana, nella radio e la TV, di cui prende 4 miliardi all'anno di euro. Mia Vincino, magari. Ma falla finire, hanno dimezzato il finanziamento, lo sanno tutti, dai, su da bravo. Ma anche dimezzato sotto i miliardi, ma io sono in fila per prendere il finanziamento per il male, guarda, non ti credo, io sono in fila al Ministero con Legnini, c'è un appuntamento... Vita culturale, tutta di sei. Vabbè, Vincino, basta, fermati, allora, voglio sapere se è giusto. Proprio ieri abbiamo fatto un titolo sulla RAI, Telecomando Romano, perché sapete che c'è la RAI a Milano, hanno proprio giusto ieri nominato il nuovo responsabile del centro di produzione televisivo di Milano. Indovinate di dov'è? Di Borgo. Avrei detto di Borgo Manero. E allora stiamo cercando di capire anche dove stanno organizzandosi per seguire l'Expo di Milano. E abbiamo scoperto Roma. Che l'Expo di Milano. Bravi! Certo! Telecomando Romano, questo era il titolo della Padania. È chiaro, è vero. Hai ragione, però io pensavo un dibattito un po' più acceso, mi date sempre ragione. No, però no. Chiave Sempione là, quella è di su. Torino è di Torino, no? Sì, è su Vercingetorige. Noi ci siamo arresi, abbiamo alzato le mani su Vercingetorige. No, c'è stato... Ti piacciono i combattenti contro gli imperi stranieri, vero? Va bene. Prendiamo gli India se posso. Guarda, Aurora Lussana, il Parlamento è sempre aperto quando vuoi. La capa della Padania è qui e di Telepadania ben accetta. Saluto anche Vincino, vi devo salutare. Sì, andiamo al giornale radio, poi c'è la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci alle 7:19 minuti, pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo di tasse, le vostre tasche, cari italiani. Arriva il redditometro e poi, insomma, l'approccio è sempre questo. Pensate che il fisco abbia degli occhi da lince e vi voglia guardare nelle tasche in maniera... Per esempio Beppe Grillo ieri l'ha definito in un post come Beria, no? Come nell'URSS staliniana, che ha detto addirittura bisogna abolire Equitalia. Insomma, pensate che sia davvero questo il rapporto tra fisco e italiani, oppure pensate che sia giusto che ci sia un controllo stringente, un controllo con gli occhi bene, con i raggi laser a scrutarvi, a guardarvi per beccare quelli che sono evasori fiscali? Questo è il senso della puntata di oggi, quando con i nostri ospiti ne parleremo alle 8:15. Prima però di che cosa parliamo? Come al solito andiamo a leggere con voi i quotidiani. In questo venerdì 6 settembre Si chiude oggi la 18ª settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché la 18ª settimana decisiva per l'abolizione delle province. Allora, i titoli intanto, il Sole 24 Ore apre su Draghi, rassicura i mercati, tassi BCE bassi a lungo. Questa è l'apertura dunque sulla questione finanziaria internazionale. Mentre la Siria è l'apertura per il Corriere della Sera, Obama spinge, gelo con Putin. Mentre venendo in Italia sono molte le aperture dei quotidiani che sono declinate su quello che succederà allora, la decadenza Berlusconi, l'ipotesi di crisi. Vediamo un po', La Stampa, Napolitano al PDL, niente crisi, Il Messaggero, Altolà del Colle, no alla crisi, Repubblica, rischio crisi, l'Altolà di Napolitano, L'Unità, il PD, un delitto aprire la crisi. E poi Il Giornale, il giudice della sentenza Mediaset, Esposito sotto inchiesta, sono andati a vuoto i tentativi del PD di arrivare all'archiviazione, ora rischia il trasferimento. Il Fatto Quotidiano, Berlusconi non solo frodatore fiscale, alleato della mafia da 40 anni, sono le motivazioni della condanna dell'Utri. Libero, guida la crisi tra falchi e colombe, cosa conviene a Silvio. Il Secolo XIX, confido in Berlusconi, l'Altolà di Napolitano. Mentre il Manifesto apre su sboom economico, consumati dalla crisi gli italiani cambiano vita, il rapporto COP 2013, mentre torna e rimane sulla Siria, Avvenire convinzione di pace. Francesco al G20, no alla pretesa di una soluzione militare. Questo è l'appello del Papa. Allora, io ironicamente ho detto, perché tengo il conto su Twitter, sul mio profilo Alino Milan, siamo alla 18ª settimana decisiva per la riforma elettorale e decisiva anche la 18ª settimana per l'abolizione delle province. Lo dico per segnalare, ovviamente, per chi non avesse capito, che in Italia non si riesce a fare nulla. Per esempio, una cosa era stata fatta e due giorni fa ne abbiamo parlato. Avevamo ospite il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rossano Calabro, che protestano per la chiusura, l'accorpamento del tribunale di Rossano Calabro con quello di Castrovillari. Che succede? Uno apre i giornali, il Sole 24 Ore, pagina 13... Taglio rinviato per 8 tribunalini. Ma come rinviato? Ma perché rinviato? Ma perché in Italia bisogna sempre rinviare tutto? Eccolo qui il Messaggero, per 8 tribunali la chiusura è rimandata, si rimanda sempre. 2 anni in più vengono concessi per smaltire le cause. Ed è quello che ci diceva il presidente degli avvocati di Rossano Calabro. Ci sono tutte le cause. Ah, Rossano Calabro è proprio uno degli 8 tribunali che è stato salvato. Vittorio Nuti, pagina 13 del Sole. Nessuno stop in extremis per il taglio dei piccoli tribunali al via il prossimo 13 settembre. Ma per 8 sedi? E sono Chiavari, Lucera, Rossano, Sanremo, Alba, Bassano del Grappa, Pinerolo e Vigevano. Per queste 8 sedi la chiusura è rinviata di 2 anni per dar modo agli uffici di smaltire le cause civili arretrati. 8 tribunalini salvati per decreto dal Guardasigilli Anna Maria Cancellieri sono nelle prime posizioni per popolazione di riferimento, indice delle sopravvenienze, ovvero per litigiosità. Avete capito? Quindi, siccome c'è alta litigiosità, ci sono tante pendenze di cause civili, rinvio di 2 anni. Ma state tranquilli che entro 2 anni troveranno un'altra motivazione per rinviare. Questo è pacifico. Sta di fatto che il dato di fatto è questo. 8 tribunalini, rinviata la chiusura per 2 anni. Ora vi voglio parlare di 2 personaggi che oggi sono sui giornali. Il primo è Sabina Began, ve la ricordate? L'ape regina, cosiddetta. Quando si parlava delle donne attorno a Silvio Berlusconi, lei era definita l'ape regina. Ebbene, finisce oggi sui giornali perché ha avuto una consulenza sulla quale sia il Corriere della Sera sia Repubblica si concentrano con mezza pagina a dire: ma come mai una consulenza da 370.000 euro della Infronta, che è una società che si occupa di sport, calcio e diritti televisivi. guarda caso. L'ape regina dei tempi d'oro, racconta per esempio Giovanna Cavalli sul Corriere. A pagina 14, Sabina Began, ai tempi d'oro di Palazzo Grazioli, definita appunto l'ape regina, accantonate le ambizioni cinematografiche o televisive, il turbine giudiziario sulle escort presidenziali, si è rigenerata come esperta di calcio e diritti TV, ingaggiata con una invidiabile stipendio di 370.000 euro all'anno, pare. Dopo un velocissimo apprendistato nel quale lei stessa ha detto: mi sono occupato degli sponsor del Milan, mi ci ha messo Berlusconi, mi doveva qualcosa, spiegava a febbraio del 2013 quando era stata assunta il club rossolero. Sono stata io, per esempio, ha detto, a far tornare Shevchenko al Milan. Eccola qua la colpevole, l'abbiamo trovata, lo dice lei sul Corriere: sono stata io a far tornare Shevchenko al Milan perché sono amica di Abramovic, non voleva, sono andata a Londra e l'ho convinto. Cioè, pure sta cazzata ha fatto. E vabbè, comunque, su Repubblica anche il dramma di Silvio ridiventa commedia, consulenza d'oro all'ape regina Began. Filippo Ceccarelli, mezza pagina, pagina 9. La società in fronte, che racconta Repubblica, è legata al Milan, secondo dei legami, perché il numero uno della società, racconta Repubblica, Marco Bogarelli, è molto legato al Milan e al suo amministratore delegato Gagliani, così dice Repubblica. Appunto, c'è questa consulenza da 370.000 euro l'anno. L'altro personaggio di cui voglio parlare finisce oggi ancora sui giornali, è il ministro Cécile Kyenge, questa volta non per un'azione commessa da lei in prima persona, ma per una vicenda che coinvolge una delle sorelle, che è stata rinviata a giudizio. Capia Kyenge, conosciuta anche come Dora, sorella del ministro per l'integrazione, è stata rinviata a giudizio perché è accusata di aver insultato e picchiato una albanese sua vicina di casa. A processo la sorella della Kyenge, questo titola per esempio Il Messaggero a pagina 15, ma anche Libero e Il Giornale, che non hanno mai fatto sconti al ministro Kyenge. Diciamo, ci si buttano a capofitto su questa storia. Il lato razzista della Kyenge, la sorella picchia gli albanesi, così titola per esempio Libero a pagina 14 con Giordano Tedoldi, ma anche Il Giornale, la sorella manesca in guai alla Kyenge. Tra l'altro racconta Libero nel resoconto di questa vera e propria rissa condominiale o discussione condominiale finita, secondo le accuse, di Aferdita Bkuri, cioè la vicina albanese, con insulti, minacce e anche botte. Beh, è condito questo articolo con anche quello che è scritto nella denuncia della persona che è stata aggredita, dice di essere stata aggredita, e che riferisce: la sorella del ministro una volta che mi ha colpito mi ha detto ho le spalle coperte, tanto mia sorella è in Parlamento. Vabbè, questa è una vicenda ovviamente tutta da chiarire, e che però fa guadagnare altre paginate al ministro Kyenge sui giornali. Ci fermiamo qui, è tempo di meteo e pubblicità, e poi ritorniamo con intanto l'ampia pagina dedicata alla crisi. Certo, qualcuno mi ha suggerito, ma perché il premio La Carta Costa non dovrebbe andare di diritto a tutti gli articoli, sono almeno un centinaio nella mazzetta dei giornali dedicati alla vicenda telenovela, crisi, non crisi, effettivamente non è una brutta idea. Anche oggi il termometro della crisi lo visualizzeremo attraverso gli articoli dei giornali. Per il momento Berlusconi viene dato ieri falco, oggi vira sul falco colomba. Ma oggi pomeriggio, chissà, domani poi addirittura, è un altro giorno. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Ed eccoci qui alle 7:35 minuti. Allora, come detto, tantissimi gli articoli e i retroscena, le indiscrezioni su ci sarà la crisi, non ci sarà la crisi, falchi, colombe, crolla tutto, non crolla tutto. Certo, la situazione è seria, la questione è seria, ma come raccontava ieri, e a mio modo di vedere giustamente, Filippo Facci su Libero, verrebbe da dire: oh, telefonateci quando avete finito, cioè è perché non se ne può più, sinceramente non se ne può più. Eppure questa è la rassegna stampa, e quindi Eccolo qui, la carrellata di articoli dedicati a questo tema. Beh, il tema politico principale è che il Quirinale ieri con una nota, Giorgio Napolitano, ha fatto sapere che con la crisi sono gravissimi i rischi che si corrono, come racconta Lina Palmerini a pagina 8 del Sole 24 Ore. Il costante saliscendi di questi ultimi giorni tra promesse di crisi imminenti e parziali frenate non ha lasciato indifferente certo Giorgio Napolitano. Per alcuni giorni è stato a guardare, rassicurato dalle ripetute dichiarazioni arrivate da Berlusconi sul sostegno al governo. Ma ecco poi che adesso la situazione sembra precipitare. Allora la nota di Napolitano, nella quale ci sono due cose importanti. La prima è che non si sta lavorando a un piano B. Napolitano non sta studiando o meditando il da farsi nel caso venga aperta una crisi di governo. Questa è la prima frase della prima riga del comunicato diffuso dal Quirinale. Qualcosa vorrà dire, significa innanzitutto, scrive il Sole, che sono infondate le voci di un capo dello Stato impegnato a mettere insieme una maggioranza raccogliticcia fatta con transfughi del 5 Stelle o del PDL per un Letta bis. E poi il sentiero che vede Napolitano è quello del governo Letta, che in queste ore appare stretto, è vero, ma viene considerato l'unico in grado di non fare scivolare l'Italia. Ed ecco qui l'altra frase chiave del comunicato: l'insorgere di una crisi, scrive il presidente, precipiterebbe il paese in gravissimi rischi. Questa è la nota del Quirinale. E il dato di fatto è che si è divisi all'interno del PDL tra falchi e colombe, tanto che ieri il retroscena più interessante da questo punto di vista è di Francesco Verderami sul Corriere della Sera, pagina 13. C'è stato un incontro particolare, speciale, tenuto riservato tra il capo dello Stato e Fedele Confalonieri, vale a dire il più grande confidente, uno dei più grandi amici e anche socio delle società storicamente di Silvio Berlusconi. Confalonieri, missione al colle, si tenta l'ultima mediazione, l'articolo a pagina 13, un colloquio riservato con l'ok del Cavaliere e di Marina. Nemmeno in guerra, scrive Verderami, si interrompono le relazioni diplomatiche. Allora non è una fortuita coincidenza la nota del Quirinale con la quale Napolitano dice di confidare in Berlusconi per la tenuta del governo e il colloquio riservato concesso dal capo dello Stato a Confalonieri, presidente di Mediaset, membro del consiglio di amministrazione del giornale, ma soprattutto cuore, braccio e mente del Cavaliere, amico da una vita, crocevia dei pensieri più intimi e delle iniziative più clamorose dell'ex premier. E allora, visto che nemmeno in guerra si interrompono le trattative, a Confalonieri è stata affidata l'ultima, più difficile per volontà del padre e della figlia, missione che l'altra sera attendeva trepidante. E allora tutti sanno, scrive ancora Verderami, sia i berlusconiani che i non berlusconiani, che tutto sia nelle mani di Napolitano. Così il patron del Biscione, che di sé dice sempre non ci capisco di politica, si è incaricato di parlare di politica coi politici, ha fatto il giro romano delle sette chiese, ha consultato amici e avversari prima e dopo la sua salita al colle. E sta di fatto che pare abbia avuto almeno un risultato. Ieri sera c'era un ritorno al sereno in quel di Arcore, così racconta Verderami dopo l'incontro appunto tra Napolitano e Confalonieri. E insomma questo è il clima. Ugo Magri sulla Stampa, ognuno ha i suoi retroscenisti che si dicono sempre ben informati, e il retroscena della Stampa dice invece che questo incontro tra Confalonieri e Napolitano è un incontro di cui si parla molto, ma non ci sono conferme ufficiali. Fonti berlusconiane si azzardano a sostenere che vi sarebbe stato un colloquio seguito nel pomeriggio da un altro incontro. Stavolta l'incontro del pomeriggio sarebbe stato con protagonista Letta, lo zio, non il nipote, precisa Ugo Magri sulla Stampa. E quindi ecco che si contorna di ulteriore giallo, e cioè che non solo Napolitano avrebbe visto Confalonieri, ma avrebbe visto anche Gianni Letta in colloqui privati. E infatti, titola La Stampa con l'articolo di Ugo Magri: Berlusconi per ora fa un passo indietro. Ecco, quel per ora dovete immaginarvelo tra parentesi, perché questo è così. Ogni ora, ogni mezz'ora cambiano gli umori, e almeno a raccontare quello che raccontano, quello che dicono i giornali, e così in base agli umori si decidono i destini del paese. Berlusconi va alla guerra, il Colle prova a fermarlo, così titola il Fatto Quotidiano a pagina 3. Insomma, tutti i giornali sono in attesa di questo D-Day, lunedì prossimo, che poi non sarà un giorno che segnerà, attendetevi, una grandissima svolta, o forse sì, o forse addirittura prima. Forse c'è il videomessaggio, per esempio il giallo di questo videomessaggio. Daniela Santanchè giura che questo videomessaggio c'è, lo ha già registrato, un videomessaggio nel quale Berlusconi dovrebbe annunciare in qualche modo una rottura delle alleanze. Lo manderà in onda? E se lo manderà in onda, lo manderà in onda domenica? E soprattutto, questo videomessaggio esiste davvero o è nella fantasia o nelle pressioni? È un modo per fare pressione, per mantenere alta la linea, il volo dei falchi? E poi l'altro giallo, lunedì Berlusconi parteciperà alla telefonata su Canale 5 con Maurizio Belpietro il giorno della giunta? Chi lo sa, io non ci dormirò il weekend, per esempio, non so voi. Oppure Berlusconi lunedì pomeriggio parteciperà a una kermessa a Sanremo col direttore del giornale Alessandro Sallusti? È un altro tema che sicuramente rischierà di rovinare un pochino il weekend di tutti noi, e non si sa. Intanto di fatto è che questo è raccontato dai giornali. È raccontato dai giornali anche che il CSM indaga La toga anti-CAV, così è definita dal giornale. In realtà è Antonio Esposito, presidente della sezione feriale della Cassazione, che ha condannato il Cavaliere e dopo ha rilasciato queste dichiarazioni che sono finite anche in audio sul sito del Mattino di Napoli. Sta di fatto che se non sono pronti i piani B, questa è la versione ufficiale del Quirinale, al Parlamento, racconta Mario Aiello sul Messaggero, ci sarebbe tutto un gran tourbillon e pissi pissi gossip su chi potrebbero essere i 14, vengono identificati questi voti necessari, i 14 neoresponsabili che in caso di caduta di governo potrebbero fare una stampella a un Letta bis. L'operazione neoresponsabili in Senato è caccia a 14 voti. Prima pagina del Messaggero, dovete immaginarvi con questi corridoi un po' silenziosi per il rientro delle vacanze, tutti a guardarsi negli occhi, a pensare sarà quello lì che cambia, fa il volta gabbana, oppure responsabilmente appoggia al Letta bis. Io lo giuro, non tradisco, detto con accento campano. Io traditore, si vuole infangare il sottoscritto, detto con accento calabrese. Traditore a mia, con accento siciliano. Io li ho letti con accento normale. Ma così inizia l'articolo di Aiello. Ecco, la scena è quella della riunione dei senatori del PDL l'altro giorno, la sfilata dei peones azzurri. Ma c'è chi nel loro stesso partito li ha soprannominati ironicamente i sanfedisti, come quelli del 1799 che al seguito del cardinale Ruffo andarono all'assalto dei Giacobini cantando il loro inno. Ecco, c'è la sindrome da accerchiamento e anche la sindrome da traditori possibile all'interno del Popolo della Libertà. Sarà così? Chi lo sa? Intanto il PD che fa? Renzi assicura non cade il governo. E anche qui sul PD c'è da registrare oggi un'intervista a Rosy Bindi, che almeno lei risparmia lo sport più in voga di questo settembre, vale a dire la salita con salto sul carro del vincitore. Rosy Bindi, intervistata da Giovanna Casadio su Repubblica, dice: io rottamanda sfido Renzi, lancerò un nuovo candidato e non voglio certo mettere in imbarazzo il sindaco di Firenze come hanno fatto altri, quindi non lo sosterrò. Beh, almeno molto più seria in questo Rosy Bindi, che dice: siamo sempre stata identificata come la prima da rottamare, di certo adesso non farò quella che sosterrà Matteo Renzi. Da registrare anche questa notizia di colore, prima del traffico. Roberta Lombardi, che è l'ex capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, è incinta e siamo molto lieti per questa notizia. Aspetta una bambina. Ha deciso, così dice lei, di chiamarla Stella, perché ha detto: così dopo le 5 stelle di Grillo ci sarà la sesta stella in casa. Stella è un bellissimo nome, cioè parliamoci chiaro, però lei stessa ha detto: chissà che ne penserà mio marito. Ecco. Tifiamo tutti per il cambio di scelta del nome e siamo tutti dalla parte del marito, diciamo la verità. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora eccoci qua alle 7:46 minuti. La politica è così, si interroga su queste cose e invece non si preoccupa delle cose che avvengono in maniera seria. Per esempio, ieri c'è stato un incidente, vogliamo chiamarlo così, una mozione della Lega sulla quale la maggioranza si è espressa contraria, è passata con qualcuno addirittura che ha detto ho sbagliato a votare. È una mozione che impegna il governo a non aprire nuove sale giochi. Subito il governo si è allarmato, così perdiamo 6 miliardi, il tesoro ha fatto i conti, che è un modo effettivamente per capire quanto frutta anche il gioco d'azzardo legalizzato. Il tesoro dice inapplicabile, è vero che è una mozione e quindi impegna il governo, ma non è una legge, e spesso queste mozioni che impegnano il governo poi vengono lasciate come carta, così, carta scritta che non ha però alcun tipo di vincolo. Però il dato di fatto è questo. Oppure questo articolo mi ha colpito molto di più. Sul Sole 24 Ore, Roberto Turno, a pagina 10, mentre la politica si interroga alla puntata della telenovela numero 5712 su che succederà lunedì sulla decadenza Berlusconi, in Parlamento 20 riforme rischiano l'affossamento. Questo è il titolo. 20 leggi in caduta libera, scrive Turno, 20 riforme in balia dei venti di crisi, proprio mentre al Senato da lunedì si riapriranno i giochi ufficiali sulla decadenza di Berlusconi. Tra Montecitorio e Palazzo Madama scatterà la ripresa a pieno ritmo dei lavori. E a 178 giorni dall'insediamento del Parlamento, 4 mesi dopo la nascita del governo Letta, ecco la lista delle incompiute, lunga, equamente suddivisa tra Camera e Senato. Ci sono intanto i 4 decreti legge in vigore, a cominciare da quello sulla cancellazione della prima rata IMU, il contrasto al femminicidio, la tutela dei beni culturali con rilancio promesso di Pompei, Italia agli sprechi della pubblica amministrazione con la ciambella di salvataggio per i precari. Queste riforme attendono un iter da essere concluso invece di parlare di minchiate. E poi c'è anche, vabbè, ovviamente, racconta Roberto Turno, la riforma elettorale. Ma certo, ma come no, la riforma della legge elettorale, la prima grande incognita, lo è almeno da 18 settimane decisive, aggiungo io. Ma ancora, il bicameralismo, i tagli parlamentari, l'abolizione delle province, lo stop al finanziamento pubblico ai partiti, Ecco, appunto. Mentre si parla nelle feste di partito delle cose, queste sono le cose concrete che potrebbero saltare in maniera definitiva. Intanto, in tutto questo, per quel che riguarda l'economia, c'è l'economia diciamo internazionale, che riguarda ovviamente anche l'Italia, con la notizia che Draghi ieri, presidente della BCE, ha rassicurato tassi bassi a lungo. In questo la BCE è pronta ad agire, come racconta il Sole 24 Ore a pagina 3. Ieri Saccomanni, che sta accompagnando il premier Letta in Russia al G20, ha detto l'Italia non è più sorvegliato speciale, c'è ottimismo. Anche Letta dice ora si discute di crescita. Certo, bisogna capire se sono parole ottimistiche poi confortate dai dati. Saccomanni titola anche il Corriere segnali veri, la ripresa in corso, o se è quell'ottimismo, come fa sottolineare qualcuno sui giornali, di facciata per dimostrare proprio in questo momento la crisi sarebbe assolutamente devastante, proprio perché i segnali in realtà sono incoraggianti. Per esempio, ci sono alcuni segnali che invece sono stati diffusi ieri nel rapporto COP sui consumi, che non parrebbero essere allo stesso momento molto ottimistici, come invece fanno trapelare e fanno sapere i vertici del governo. Attraverso il rapporto dei consumi, COP è un'Italia che non mangia più, per esempio, questo è il titolo di pagina 4 del manifesto, perché la crisi ha cambiato il volto del nostro paese: meno vacanze, si resta in città, pochi pasti proteici, cioè c'è molta attenzione, questo lo si vede facendo la spesa, lo vedo anch'io, c'è sempre una grande attenzione da parte di tutti a guardare a quello che è in sconto, a quello che costa meno. Molti si fanno, crescono per esempio quelli che si fanno l'orto in casa, quelli che hanno la possibilità di magari coltivarsi qualcosa. Ecco, però poi al lato di queste cose, che sono ovviamente concrete, aumenta però e c'è un boom vero e proprio di compravendita di Viagra. Viagra. Insomma, comunque si mangia poco, ma vabbè. Questo almeno il rapporto Coop. È un'Italia che non mangia più. Questo è il titolo del manifesto. Anche La Stampa dedica 2 pagine. A questo rapporto e a queste notizie. Oh, c'è la questione della Siria, ovviamente, con l'appello del Papa sui giornali. C'è ancora il racconto delle tasse. Noi parleremo alle 8:15 di rapporto tra fisco e cittadini, con l'arrivo anche del redditometro. Anche Deborah Rosciani ne parlerà alle 12 in Salvadanaio di questo redditometro. Noi vogliamo impostare il discorso sul tema, ma insomma questo rapporto è un rapporto troppo, come dire, ossessivo da parte del fisco. Secondo voi ci controllano in maniera stringente? Oppure c'è chi pensa, beh, ma non c'è nulla, chi non ha nulla da nascondere, non ha nulla da temere, quindi è giusto che il fisco faccia il proprio lavoro. Comunque 800 24 00 24, tra pochi minuti i telefoni saranno aperti, noi ne parleremo alle 8:15, ma siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, e stavolta ci casco nella politica. Ebbene sì, raccogliendo un po' l'invito di chi dice, ma insomma tutte queste cose. Repubblica, per parlare del PD a pagina 6, chi intervista mezza pagina, il rapper Moreno, perché c'è tutta la polemica sul rapper Moreno. Già definirlo rapper è come se io mi definissi un cantante, ma comunque è uno che ha vinto Amici e che chiuderà, almeno così diceva, chiuderà la festa del PD a Genova, si esibirà a Genova. E il rapper Moreno su Repubblica ci tiene a dire: io ripudio la festa, la mia musica non c'entra nulla col PD. Carlo Moretti su Repubblica lo intervista, con Moreno che dice: fa un po' ridere che si dica che io suono la festa del PD. Il mio concerto, la festa democratica, sono 2 cose diverse. La festa dell'unità è alla Foce, il mio concerto è al Porto Antico. Entrambi a Genova, bisogna prendere 2 pullman per venire al mio concerto. Non ci sarà alcun tipo di segno, nessuno che ricorda che siamo alla festa del PD, anzi mi fa sorridere tutto questo clamore. Però lei chiuderà la festa del PD? Sentite la domanda clou. Lei chiuderà la festa democratica? Cosa dirà Repubblica, appeso alle parole del rapper Moreno, cosa dirà per chiudere la festa democratica? Dirò grazie a tutti. Ma il rapper Moreno, ma amici di Repubblica, concluderà al popolo democratico con queste parole la festa: grazie a tutti. E così, amici di Repubblica, ricordatevi sempre che la carta costa. 24 mattino. Quando sono le 8 e 17 minuti in punto, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qui allora a approfondire il nostro tema, che è il rapporto tra noi e le tasse, tra noi e il fisco, cari italiani. Anzi, oggi vi voglio molto coinvolgere. 800 24 00 24, questo è il numero di telefono per intervenire. Per esempio, ieri Beppe Grillo, che come si sa non è uno che va per il sottile, ha parlato di Equitalia, che tra l'altro secondo lui dovrebbe essere cancellata, paragonandola al commissario Beria, no? Di staliniana memoria. Anzi, ha scritto Beppe Grillo che Stalin e Beria erano anche più umani e democratici, perché sbranavano i cittadini ma senza ammantarli dietro false scuse, senza accampare scuse di democrazia e di equità. Ce l'ha Beppe Grillo con il nuovo strumento che sta per arrivare, il redditometro. Cioè il fatto che Equitalia potrà mandare le lettere, pare siano pronte la settimana prossima, lettere ad alcuni contribuenti, a quelli che nel 2009 hanno fatto delle spese che risultano non congrue rispetto al reddito dichiarato. Questo in grande sintesi. Poi vi dico già che tutti i dettagli li racconterà anche Deborah Rosciani alle 12 in Salvadanaio, racconterà insomma chi è a rischio dell'arrivo di questa lettera. Il punto che vogliamo sviscerare oggi in questo spazio è: che ne pensate di questa impostazione? È addirittura staliniana, dice Grillo, oppure è corretta perché il principio è che se uno non ha nulla da nascondere, se anche ti arriva una lettera per dire scusa perché hai comprato questa cosa che non risulta congrua rispetto al reddito, uno non ha niente da temere, dice, dimostrerà, l'ho presa perché è così, punto. Che ne pensate? Ne vogliamo parlare con l'avvocato Alessandro De Nicola, che presiede l'Adam Smith Society e docente alla Bocconi. Buongiorno professor De Nicola. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Saluto anche Bruno Tinti, ex magistrato, firma del Fatto Quotidiano, che saluto e che ritroviamo con piacere. Buongiorno a lei. Eccoci qua. Allora De Nicola, non so, io ho fatto ovviamente le due impostazioni estreme, non so se vuole lanciarsi anche lei in questi accostamenti staliniani alla Beppe Grillo. Ma che ne pensa di questa impostazione del fisco in Italia? No, per carità, niente Beppe Grillo. L'impostazione del fisco in Italia sicuramente è in qualche modo gravata da un atteggiamento per il quale il contribuente ha sempre l'onere della prova, e questo è un qualche cosa che non è solamente riferita al redditometro, ma in qualche modo si vede anche nelle fasi di accertamento. Diciamo, il contribuente è in una posizione sicuramente di svantaggio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Il difendersi per il contribuente non è semplice. Quando si difende, non sempre l'Agenzia delle Entrate, anzi secondo le statistiche l'Agenzia delle Entrate perde abbastanza spesso di fronte alle commissioni tributarie, e quindi in qualche modo bisognerebbe far sì che l'accertamento sia mirato verso casi che anche abbiano a cuore l'efficienza dell'accertamento. Mi spiego. Se, come dicono le statistiche, in 13 anni, dal 2000 al 2012, sono stati accertati 805 miliardi di reddito non dichiarato, anzi 805 miliardi di incassi che il fisco avrebbe dovuto ottenere e che invece non ha ottenuto. Sì. E questi 805 miliardi, questa è la relazione del governo dell'anno scorso, ne sono stati incassati solo 65 miliardi. Vuol dire che sbagliano indirizzi, ecco. Diciamo vuol dire che l'Agenzia delle Entrate non funziona, o si fa sfuggire troppo gli evasori, oppure quello che loro pensano essere evaso poi non è evaso, ma insomma c'è qualcosa che non funziona. Ma lei dice è una perdita. È un numero che salta all'occhio in modo troppo evidente. Lei dice, no? Anche è uno spreco di tempo, di procedure, quindi di costi. Bisognerebbe... Per la pubblica amministrazione e per il contribuente. Chiaro, lei, professor De Nicola, dice bisognerebbe andare più a colpo sicuro, cioè fare degli accertamenti. Faccio solo questo piccolo esempio, sì, del redditometro e poi lascio a lei condurre ovviamente, ma per esempio nella versione precedente il redditometro diceva che gli accertamenti ci sarebbero stati solo se ci fosse stato uno scostamento superiore ad un quarto rispetto a quello che veniva fuori dagli indici. Adesso, nella nuova versione, che avrebbe dovuto essere una versione edulcorata, una versione più amichevole, invece che un quarto è un quinto. Quindi l'accertamento parte quando c'è uno scostamento ancora minore, e ovviamente se lo scostamento è minore rispetto ai parametri e così via, la possibilità di errore è molto più alta, perché tu l'accertamento lo fai su un anno invece che ad esempio su un periodo più ampio di 3 anni. Lo fai pensando ai redditi e non pensando a quello che tu hai potuto risparmiare nel corso di una vita. Insomma, è ovvio che se tu dai una fascia molto bassa, la possibilità di errore è molto più alta. Se tu vai a colpo sicuro, magari riesci anche a non sprecare le risorse e a non scocciare il contribuente. Sì, effettivamente questo dato colpisce, cioè gli 805 miliardi che il fisco avrebbe del dovuto... governo del vice ministro Casero dell'anno scorso. Che avrebbe dovuto incassare il governo, solo 65 poi alla fine sono stati, dopo immagino, incassati. I contenziosi incassati. Bruno Tinti, chiedo anche lei intanto che ne pensa di questo nuovo strumento, il redditometro, e dell'impostazione generale che ha fatto è stato uno degli elementi, forse l'ultimo, che ha fatto sbottare in questo caso Beppe Grillo, ma non stiamo parlando di Beppe Grillo, stiamo parlando del rapporto tra il fisco e tutti noi. Ma mi piace molto la diagnosi e l'esame della situazione fatto dal professor De Nicola. Vorrei però fare alcuni chiarimenti, sempre dal mio punto di vista. 805 miliardi accertati, 67 riscossi. Prima di tutto, accertare è una cosa. Accertare definitivamente all'esito di un contenzioso tributario, che vuol dire commissione provinciale, commissione regionale e Cassazione, è un'altra. Quindi di questi 805 miliardi bisognerebbe sapere quanti sono sopravvissuti al vaglio delle commissioni tributarie e quanti sono ancora in corso. Tutti noi leggiamo sui giornali quelle dichiarazioni della Guardia di Finanza, sì. Abbiamo scoperto 25.333 evasori totali. Se fosse così, in Italia non ci sarebbe più l'evasione. La verità è che la Guardia di Finanza dà conto del risultato della sua attività in prima battuta. E poi c'è poi tutto, da lì comincia chiaro. Tutto. Quindi lei dice questi 805 miliardi, bisogna vedere poi in concreto quanti sono. Cioè lei dice 65 li ha recuperati, ma può darsi che ci siano dei contenziosi ancora in corso e no, magari ne recupereranno. È assolutamente sicuro. Assolutamente sicuro. Però c'è un altro punto da verificare. Sfortunatamente, qui il professor De Nicola ha messo proprio il dito sulla piaga, l'efficienza dell'Agenzia delle Entrate in punto riscossione è modestissima. La stessa Agenzia delle Entrate parla di una percentuale di riscosso sul definitivamente accertato che non supera il 12%. Questo perché? Perché una cosa è avere un foglio di carta, cioè una sentenza definitiva che ti dice: contribuente, tu devi al fisco 1 milione di euro, e altra cosa è prenderglielo. Questo sì. Però... E quindi quando si dice 65 miliardi bisogna tener conto del fatto che poi i contribuenti non pagano. Il punto è difficile ottenerli, però Bruno Tinti, il punto che sottolineano molti è questo: un patto. È un patto che si fa tra due persone, tra due gentiluomini. Io e lei possiamo fare un patto, un accordo. L'idea è per molti è che il patto sia sbilanciato, perché mentre lo Stato esige, chiede giustamente le tasse e non giustamente il livello di tasse forse italiane, dall'altra parte molti dicono: e perché lo Stato però dall'altra parte spende, spande, io non so niente, spesso si sa come spende, spesso non vorremmo saperlo quando leggiamo certe cose, spesso non riusciamo a capire dove li spende lo Stato. Allora sembra il patto sbilanciato, cioè lo Stato pretende e ottiene tutto e noi invece siamo così un po' a doverci fidare, dobbiamo sempre dare, ma non possiamo controllare la spesa pubblica dello Stato, per esempio. Dottor Milan, lei ed io questa discussione l'abbiamo già fatta. Io non nego l'inefficienza e spesso l'iniquità dello Stato quando è inadempiente ai suoi doveri. Però, come ho detto tante altre volte, due torti non fanno un diritto. Non è che se io subisco una rapina che mi ha portato via i soldi con cui sto facendo la spesa, sono autorizzato a rapinare il primo passante che sta vicino questo a un bancomat. Questo no, però fa crescere quel sentimento di uno sbilanciamento totale, di quel sentimento di vessazione, ecco questo. Ma non c'è dubbio, e infatti noi abbiamo circa 150 miliardi l'anno di evasione fiscale. Che è il tasso di evasione fiscale più alto, credo, del mondo occidentale. E da qui non se ne esce. Se continuiamo ognuno a dire prima tu, nessuno va avanti prima. E questo sì, però lo Stato però è un qualcosa in cui credi, insomma, è un patto sociale in cui tutti crediamo. Professor De Nicola, secondo lei questo sbilanciamento è quello che porta a questa sensazione di esasperazione? Però dice Bruno Tinti, non deve giustificare il fatto che uno non paghi le tasse. No, certo, non deve giustificare il fatto che uno non paghi le tasse, però vede, le tasse vengono pagate anche quando c'è un senso civico che è alimentato anche dal comportamento dei rappresentanti dello Stato. Allora, in Svezia, dove la pressione fiscale è alta, una volta era molto alta, adesso persino in Svezia è più bassa che in Italia, questo per inciso. Comunque, dove tradizionalmente è sempre stata molto alta, l'evasione è molto bassa. Perché c'è un rapporto diverso tra Stato e cittadino. Ora, naturalmente, da un punto di vista di politica economica, gli svedesi si sono resi conto che era troppo alta e hanno cominciato ad abbattere sia le spese che le tasse. Ma anche quando era alta c'era un certo tipo di rapporto. Se in Italia non si crea questo rapporto, essendo la spesa fuori controllo, essendo l'imposizione fiscale molto alta, perché io voglio ricordare questo agli spettatori, è vero che la pressione fiscale è del 45% e con le altre entrate, tipo le multe, arriva al 48-49%. Ma questo 48-49% 49%, è calcolato su tutto il prodotto interno lordo, ma di questo prodotto interno lordo quasi il 20% è in nero, eh? Quindi se mi seguite con una logica molto semplice di numeri, questo 48 viene pagato dall'80% in bianco, il che vuol dire che il povero 80% in bianco paga di più, paga il 60% certo, di tasse. Certo. Ma è ovvio che con una cioè è ovvio che questi sono in una situazione in cui c'è già una cultura di sfiducia nei confronti dello Stato, che per l'Italia ha ragioni storiche, quello che vi pare. È ovvio che se c'è un incentivo a far sì che se uno evade risparmia una marea di soldi, beh, ma chiaramente questo... C'è sempre quello che incentiva, è chiaro che se dice... Se io evadendo risparmio il 20%, tipo per la cedolare secca degli affitti, va tutto sommato, posso dire, vabbè, almeno rispetto alla legge, ma se risparmio il 60%, il 70%, la tentazione è forte, che la tentazione è forte, che ci sia un incentivo maggiore. Allora, quindi il rapporto, e aggiungo una sì, piccola cosa, il rapporto fisco-cittadino purtroppo è un rapporto che se ne frega completamente di una bella legge che fu fatta, che era lo statuto del contribuente, che viene violato in continuazione, per esempio con l'irretroattività delle norme fiscali che viene continuamente violata. Ah beh, adesso ogni per volta recuperare che c'è una i soldi norma, dell'IMU, che cosa si fa? Si toglie le detrazioni dell'assicurazione vita a partire dal 2013. Certo. E quelli che l'hanno fatte fino al 31 agosto che fanno? E quelli che l'hanno fatte prima del 2000 che fanno? No, ma quindi, infatti è questa la questione, cioè vedere assolutamente sbilanciato, sì, ma non che solo, crea ma insofferenza. È come dico io, vedere che lo Stato viola le stesse leggi che lo Stato ha approvato, in questo caso lei cita lo statuto del contribuente o comunque le norme che sono in vigore, diciamo aumenta questa sensazione. Però Bruno Tinti giustamente dice, se io vedo il vicino di casa che ruba, questo non mi autorizza a pensare che sia legittimo rubare. Certo, diciamo in questo lassismo di cultura civica potrebbe portare a far pensare anche incentivare qualcun altro a dire beh, ma insomma il mio vicino ruba e in fondo non se la passa, non se la passa male. Purtroppo questo è un problema culturale italiano innegabile. Tra 4 minuti rientriamo con Bruno Tinti, professor De Nicola. Vorrei anche i vostri contributi 800 24 0024, proprio anche sul redditometro. Che ne pensate? Avete paura che vi possa arrivare a casa le lettere a dire lei nel 2009, gentile contribuente, ha fatto questa spesa, ci spieghi come ha fatto in base al suo reddito? 24 mattino. Vabbè, siamo qua alle 8:35 minuti, sembra quasi una battuta, avete sentito la pubblicità che c'è la guida del redditometro con il Sole 24 ore, non ne parliamo per quello, ma perché è una cosa effettivamente molto vicina a tutti gli italiani, il rapporto tra gli italiani e il fisco. Siamo con Bruno Tinti, che per una carriera da magistrato si è occupato di questo tema, è ora la firma del Fatto Quotidiano, e con il professor Alessandro De Nicola. Gli ascoltatori, vorrei sentire Mauro da Roma, ci ha chiamato all'800 24 0024. Mauro, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Che allora, pensa? La mia telefonata è proprio attenta a questa domanda del redditometro. Volevo ricordare però che abbiamo una premessa lunga una vita, nel senso che c'è una situazione di devastazione che porta gli imprenditori a dichiarare che se paga tutto non riesce a mantenere sull'azienda. Questa situazione permette di cercare di fare elusione dei redditi, e a quel punto lo Stato si ricorda che ciò, tutto questo l'ha determinato lo Stato, e parte con il redditometro. Ecco. Cioè qui siamo in una fase del falso riconosciuto in tutto il rapporto. Cioè, lei Mauro dice se un imprenditore dovesse pagare tutto non ce la fa, e quindi l'unico modo per sopravvivere è, ci siamo intesi, e poi dopo lo Stato dice adesso quindi prima ti mette queste tasse, no, che ti impediscono di sopravvivere in questo caso l'imprenditore, e poi ti chiede adesso dimmi perché hai speso questo. E poi se si applica invece il principio della trasparenza, che è legittimo uno Stato civile e democratico come tutta Europa, che tutti in Inghilterra si spaventano quando sentono queste cose, perché lo Stato può vedere come manovra sul conto il cittadino, cosa fa e quant'altro, ma dall'altra c'ha tutto quello che occorre per sanzionare chi evade veramente, perché le carceri sono piene di gente che delinque nell'evasione e non nelle violenze della microcriminalità. Sì. E poi c'ha i servizi che sappiamo, perché girando oggigiorno con più facilità l'Europa, rimanendo nel campo europeo, abbiamo che lo Stato risponde anche a chi cerca di... Insomma, lei la vede proprio questo stato di polizia, lo vede un pochettino, caro Mauro, mi sembra di capire. La ringrazio, vorrei andare a Rovigo da Andrea. Buongiorno Rovigo. Buongiorno. Eccoci, dica Andrea. Buongiorno. Io vorrei dire che secondo me il redditometro è una delle tante prese in giro che lo Stato fa con i contribuenti. Basta guardare da quanto tempo è che applica strumenti di questo tipo, e mi sembra che l'evasione continua. Allora, o sono degli incapaci quelli che lo mettono a punto, oppure secondo me è una presa in giro, nel senso che vorrei fare un parallelo. Quando si gira per le strade è facile mettere dei limiti di velocità assurdi che non hanno senso con la tipologia di strada, e dopo nascondersi con l'auto velox per rubare i soldi alla gente. Il sistema fiscale italiano è il parallelo di questo. Mettono una tassazione elevatissima, ti danno qualche scappatoia, perché se facessero un sistema fiscale semplice, chiaro, dove ognuno paga e sa che quando ha pagato è a posto, sarebbe troppo invece facile. È tutto complicato, e poi ti pescano, dicono, pescano la triglia che ci cade, l'illusione di poter evadere e perciò di poter sopravvivere, e poi quando decidono vengono e ti pescano. Vabbè Andrea, Bruno Tinti, sia Andrea che l'ascoltatore di prima parlano, hanno messo questa equazione, evasione uguale sopravvivenza in alcuni casi, questo però vede la dice proprio lunga su la percentuale di persone che si oppone al redditometro, perché noi ne parliamo come se fosse un problema che riguarda tutti i cittadini italiani, ma questo assolutamente non è vero, perché proprio quella circostanza puntualmente citata dal professor De Nicola, quanto all'effettivo peso della pressione fiscale, che deve essere valutata considerando quella percentuale di persone che evade, dimostra che l'88-90% dei cittadini italiani, sono i dati del Ministero delle Finanze, è quello che fornisce il 90% del gettito, cioè i lavoratori dipendenti e i pensionati. Questa gente non è per nulla interessata al redditometro, non perché sia eticamente migliore degli altri, ma perché semplicemente non possono evadere, glieli prendono i soldi delle tasse al momento di dargli la busta paga. Quindi questo cosa significa? Che tutti quelli che si oppongono al redditometro sono una piccola percentuale di cittadini, i lavoratori indipendenti, i professionisti, insomma il popolo della partita IVA. Allora davvero attenzione noi... però, perché lei poi porta a pensare che popolo della partita IVA uguale evasori, no, o potenziali, no, no, potenziali, no, potenziali. È un'interpretazione che mi danno sempre quando io scrivo queste cose, ma da parte di quelli che hanno la coda di paglia. Io dico che tra il popolo della partita IVA ci sono gli evasori, non tutti naturalmente, mentre per ragioni proprio logiche pratiche. Tra il popolo dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, se leviamo l'operaio in cassa integrazione che va a fare l'imbianchino in nero, gli evasori non ci possono essere. Quindi noi stiamo trasformando dal punto di vista tecnico in un problema nazionale. Professor De Nicola, ma se vuole fare un commento su questo, su questo elemento che ha dato il professor Bruno Tinti, ma anche le chiedo questo: secondo lei non è comunque corretto che uno Stato possa capire, non so, lei De Nicola ha comprato una barca, uno yacht nel 2009, mi dimostri che in base a quello che ha dichiarato questa cosa un po' si scosta secondo i nostri calcoli dalle sue possibilità, ci dimostri come ha fatto, ecco, vede in questo allora, principio un qualcosa di vessatorio? Diciamo così, prima di tutto questo modo dovrebbe essere limitato per l'appunto a situazioni eclatanti, perché così come è strutturato il redditometro prende un certo anno, il 2009, come lei ha ricordato, arriva la lettera del fisco e le dice: mi dimostri perché nel 2009 lei ha comprato una bella macchina, Naturalmente questo non ha molto senso, perché il reddito delle persone non si forma solamente in un anno. Ma questo è chiaro. No? Vabbè, uno lo dimostrerà, uno dimostrerà e ecco, dirà ho risparmiato. Sì, però diciamo, diciamo così, nei casi eclatanti può andar bene, quando si scosta del 20% è chiaro che il senso di vessazione c'è molto di più. La seconda cosa è che questi potrebbero essere parametri che la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate utilizza internamente per andare a vedere dove andare a fare i controlli, da qualche parte devono pure cominciare, ma non deve essere un elemento che inverte l'onere della prova, perché come lei sa benissimo anche guardando i film americani, un conto è che uno possa essere condannato al di là di ogni ragionevole dubbio, sì, un conto è che debba convincere al di là di ogni ragionevole dubbio chi l'accusa. Sono due cose ben diverse. Questo certamente. Sentiamo Francesco da Milano, buongiorno Francesco. Sì, buongiorno, io ho ascoltato tutta la trasmissione e volevo portare una esperienza pratica, perché sento molte parole ma molto teoriche. Allora, innanzitutto il redditometro non richiede una giustificazione specifica di una spesa specifica, ma ricostruisce in modo sintetico quello che lei dovrebbe dichiarare in RN1 a fronte di tutte le spese che lei fa. Ho capito, sì, non ci faccio la tecnica del redditometro. Lei... Perfetto. Sì. Allora, esperienza specifica. Lei affitta una casa, ha un affitto regolare, ovviamente trasparente, registrato, eccetera, la spesa dell'affitto viene moltiplicata per 3. Sì. Cioè, Francesco, con questo ritmo, scusi, con questo ritmo arriviamo alla fine della trasmissione. Io non capisco cosa. Non ci faccia per favore la lezione sul redditometro. Quello che le voglio dire è totalmente kafkiano, è totalmente fuori da ogni realtà. Perché anche a numeri, io sono laureato in economia e commercio e mi faccio la dichiarazione dei redditi da quando avevo 24 anni, sì, non 56, anche a numeri non funziona. Quando poi lei parla con funzionario, questo non sa distinguere il concetto di cassa di competenza. Vabbè, insomma, kafkiano è l'aggettivo che tengo di questa telefonata. Francesco, mi perdoni, ma insomma, anche i ritmi e i tempi radiofonici sono delle regole che devo rispettare. A questo proposito, andiamo alle informazioni sul traffico, poi ci vogliamo collegare anche con un comune in provincia di Venezia, dove un sindaco ha fatto un'iniziativa che fa capire, insomma, in questi tempi non solo legati ai rapporti con le tasse, ma di crisi in generale, un'iniziativa singolare. Allora, intanto, prima di introdurre un altro ospite, Bruno Tinti, io vorrei tornare sulla questione delle partite IVA, perché come sa ha scatenato subito, guardi, gli SMS che arrivano. È vero che lei non ha detto popolo di partite IVA uguale evasore, però sa, rientra nella questione iniziale del rapporto con lo Stato, cioè io la partita IVA devo pagare l'IVA anche se ho fatto una fattura a un ASL e mi paga tra 4 anni. Io la partita IVA devo anticipare tutto. Sopravviva lei in queste condizioni, capisce che poi dopo... Ho capito, ma l'ha già spiegato il professor De Nicola. Per sopravvivere loro stanno scaricando sull'altro 90% della popolazione italiana quelle imposte che loro non pagano. Vabbè, ma che sia sempre una lotta tra cittadini, cioè tra sudditi, e lo Stato vince sempre, questo. Beh, questa insomma, sì. Io questa visione da giungla, francamente, la rifiuto. Penso. E però il dato di fatto lo dice anche lei: scaricano su altri, però su altri, appunto, altri allora cittadini. Io preferisco uno Stato regolamentato con leggi che tutti rispettano piuttosto che una specie di giungla in cui chi può ammazza quell'altro. Ma è chiaro, non mi sembra. Ma le pare normale che lo Stato debba appunto fare alla fine di ridurre tutta una guerra tra chi può pagare e chi no? È lo Stato che crea la giungla in questo, con questa incertezza. La classe politica che ci governa da 40 anni sfonda una porta aperta. Però quello che sto dicendo è proprio questo, che non possiamo prendere a giustificazione il fatto che abbiamo una politica inquinata dal malaffare e comunque incapace. Vabbè, no, no, ma questo è chiaro. Allora, io voglio salutare il sindaco di Vigo Novo, in provincia di Venezia, Damiano Zecchinato. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Allora, non c'entra con le tasse, ma tra l'altro c'entra con la situazione di crisi, la situazione che stiamo vivendo. Oggi sui giornali c'è anche questo rapporto COP sui consumi, dicendo la gente risparmia sul cibo, la gente risparmia dove può. Lei ha fatto un'iniziativa che è questa, ha detto: quando viene preso, pizzicato qualcuno nei supermercati nel mio comune, magari a rubare, a mettersi in tasca qualcosa perché di necessità non ce la fa arrivare alla fine del mese, cari gestori dei supermercati, per favore, se potete, non denunciatelo e noi come comune ripagheremo le spese della merce che è stata rubata. Perché lo ha fatto, sindaco? Sicuramente per proteggere le fasce più deboli. In questo caso diciamo è un fatto che succede perché non siamo riusciti a monte a intercettare questo disagio di queste persone che magari non si sono rivolte ai nostri servizi sociali, non sono rivolte alle nostre associazioni di volontariato che pure abbiamo, e quindi o per dignità o perché si vergognano di raccontare le loro miserie, e quindi compiono certi gesti un po' inconsulti senza magari sapere a cosa vanno bene incontro, perché è un problema addirittura penale e per cui ci sono gravi ripercussioni anche sulla fedina penale, per cui uno che cerca lavoro in futuro verrebbe sicuramente penalizzato. Ma ci sono già stati casi, cioè lei ha dovuto già sborsare dei soldi? A Vigo Novo è un'isola felice, per fortuna. Sì, a me è capitato una volta, sì, però... Cioè, cosa ha fatto? Una volta cosa vuol dire? Cioè, è andato, ha pagato... Sì, io ho pagato di tasca mia, ma il discorso è che intendevo non che pago quei soldi comuni, che pagherei quei soldi di tasca mia. Sono piccole spese, a volte la gente si rovina la vita per 10-15 euro, e se lo fa soltanto, abbiamo visto, per portare a casa il pezzo di formaggio, la fettina di prosciutto per i figli. A volte c'è stata una persona molto giovane, tra l'altro, che ha due figli, aveva una moglie che lo lavora e lui aveva perso il lavoro e è stato pizzicato a rubare su questo supermercato e per portare soltanto qualcosa a casa da mangiare. Ed è il caso che lei ha rimborsato? Cioè, questi sono i casi, non è, no, cioè, è l'idea. Non è legittimare il furto, no, ma è chiaro. Esatto, non è istigazione a delinquere, eccetera, eccetera. Questo purtroppo è l'atto finale di certe realtà. E cosa significa? Significa che il fatto non sei riuscito a intercettarlo prima, e la soluzione finale, piuttosto che finisca male, perché il derubato ha tutto il diritto di disporre denuncia, viene invitato a transare, glielo pago io il sottoscritto e me lo prendo in carica con i servizi sociali e risolviamo la questione. Senza fare nome eccetera, quanto ha dovuto sborsare? Cioè, era il caso che ci ha raccontato? Nel caso quella volta 8 euro. 8 euro. Cioè, si fa per dire, ma la persona che ha preso non aveva davvero, secondo lei, 8 euro? Sì, ma guardi, ci sono persone, alcune sono molto anziani, e con quelle persone da 460 a 500 euro ovviamente non riescono a arrivare neanche a metà del mese, non a fine mese, non hanno nemmeno i soldi per comprarsi le medicine. E noi purtroppo, amministratori, questo lo sappiamo bene, i servizi sociali, sono fatti che non riesci a venirne a conoscenza, poi perché non te li raccontano, poi perché non riesci a controllare tutti gli abitanti che nel comune. Che dire, la mia non era una provocazione per dire tanto rubate che pago io. È chiaro che qualcuno ruba per sfizio al supermercato, qualcuno perché proprio magari ha fame, ma sono casi sporadici e si capisce subito. Si accorgono del furto perché ha rubato, cosa ha rubato, quello che va a rubare la bottiglia di champagne o il liquore di marca, chiaramente. Ma è chiaro. Le posso chiedere, lei, in tutto questo contesto, anche se è parallelo, cosa ne pensa del rapporto italiani fisco e anche di questo redditometro che arriva? Ma per me è un'idea sballata, cioè questo Stato a me sembra di non stare in uno Stato di diritto, di democrazia. Quando uno Stato non è capace di fare emergere diciamo tutto quel lavoro nero, tutta quella corruzione, e se la prende con i cittadini, inventa strane forme dove va a controllare capillarmente, vedi i conti correnti, vedi che non puoi spendere più di 1000 euro in contanti, vedi tante cose che si inventano ultimamente i nostri governi, allora io dico non siamo più in uno stato di diritto e di democrazia, ma siamo ben qualcos'altro di più preoccupante. Va bene, io non le ho chiesto di che partito è lei. No, io sono della Lega Nord. Della Lega Nord, no. Non le avevo chiesto, Damiano Zecchinato, sindaco di Vigonovo. Professor De Nicola, ho 30 secondi però per chiudere, che sennò mi sfumano. Come finirà questa l'editometro? Ci saranno accertamenti, ci saranno persone in crisi? Oddio, mi è arrivata la lettera. Oppure finirà un po' così? Ma diciamo, digeriremo anche questo. Il numero di persone dovrebbe essere in circa 35-40 mila. Sì. Io spero che, visto che è un campione tutto sommato limitato, l'Agenzia delle Entrate agisca con saggezza e, come dire, applichi lo strumento del redditometro solo in casi in cui veramente a prima vista c'è in modo eclatante uno scostamento considerevole per più anni ripetuti, perché altrimenti si rischia di fare degli accertamenti, perdere tempo, perdere credibilità, perché poi si perde in commissione tributaria. Sì. E torniamo all'inizio, insomma. Spero e immagino anche che con un po' di saggezza questa cosa verrà limitata a casi eclatanti per i quali si possa con coerenza vedere uno scostamento importante tra spese e reddito. Staremo a vedere. Io intanto ringrazio tutti, vi rimando alle 12 a Deborah Rosciani, che tornerà su questo tema, l'approfondirà dal punto di vista tecnico, a capire allora chi potrà davvero ricevere queste lettere. Alle 12 Salva Danaio. Grazie a tutti, Elisabetta Fusconi, Anita Panizza in redazione, il nostro grande alpino Peter Bescapè in regia sarà con noi anche dalle 6:30 di lunedì prossimo. Seguiteci anche e soprattutto su Twitter, se volete, io sono lì, Alino Milan, quello è il mio profilo. A lunedì. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. Ventiquattro mattino.